Grazie Mario e Nella, non sono carinissimi e bellissimi? Facciamo un applauso, sono troppo belli, si vogliono troppo bene al Signore, sono bellissimi. Buonasera anche da parte mia, posso rivedere le mani dei papà? Tutti i papà con le mani, benvenuti da parte mia, siete bellissimi, allora non c'è niente di meglio che fare il papà, è vero? Questa era la risposta vostra, No, è così, non c'è niente di più bello che fare il papà, è vero papà? Però è la cosa altrettanto più difficile da fare nelle nostre vite, non è vero? È la cosa che è più soddisfacente, però che porta anche più frustrazioni nella vita. È la cosa che ci inorgoglisce di più, no? Vedere i nostri figli, è mio figlio, è mia figlia. Ci inorgoglisce di più, però niente come essere papà scatenerà le nostre insicurezze, le nostre paure, le nostre ansie. Siete d'accordo con me, papà? Chi è d'accordo con me dei papà può alzare la mano, che Dio vi benedica, perché è un lavoro duro e vedremo che solo il Signore può aiutarci in questo lavoro. E io voglio proprio darvi un incoraggiamento, in maniera particolare ai papà, però le mamme, se vogliono, di solito come fanno sempre, vi potete intrufolare anche in questa cosa qua, no? Era un po' una battuta, un colpo basso, va bene, dai. Adesso le mamme non mi possono vedere più, no? Vi voglio bene anche a voi mamme, anche stasera, anche se è la festa del papà. Voglio passare un incoraggiamento a voi papà, a voi genitori. È difficile farlo, però non c'è cosa più bella, non c'è cosa più che assomiglia a Dio, a quello che è la sua immagine in noi. E quindi vi passo questo incoraggiamento stasera, non dai salmi. Vabbè, era un po' in ritardo, proviamolo di nuovo. Questa sera non dai salmi, ecco, molto meglio, ci prendiamo una pausa, ma l'incoraggiamento lo leggeremo dalla parola di Dio, ovviamente non è farina del mio sacco, ma prego che queste parole possano ispirare i nostri cuori ad essere delle famiglie secondo il suo disegno divino, e che Lui questa sera ai nostri cuori possa rivelarsi come il Padre d'amore perfetto che è. Amen? Leggiamolo insieme. Efesini capitolo 6, leggerò prima il versetto 4 e poi l'1, 2 e 3. Vedete che bell'incoraggiamento. Padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Figli, è giusto. È giusto, onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Non è un bellissimo incoraggiamento? Questo è, no, come quello di prima. No, ma sempre con la parola del Signore io vi invito a fare questo. Non lo prendete proprio di primo impatto, ma lasciatela scendere. Osserviamola insieme, guardiamo insieme, perché da essa emergono sempre perle bellissime. E tre perle voglio estrapolare per noi questa sera da questo incoraggiamento bellissimo di questi versi. La prima è questa, che sia i padri che i figli sono chiamati a fare delle cose, giusto? Se riportiamo i versetti, i padri sono chiamati a non irritare e a istruire, a disciplinare, e i figli sono chiamati a ubbidire e a onorare, però tutti e due sono chiamati a farlo nel Signore, sia i figli che i padri. E questo è il primo incoraggiamento che io trovo in questi versetti, perché è impossibile papà fare i papà come si deve, è impossibile fare i papà in maniera perfetta. L'unica maniera per fare il papà perfetto è farlo nel Signore. È lo stesso per i figli, ubbidire, onorare, è impossibile da voi stessi. L'unico modo per farlo è farlo nel Signore. Che cosa significa questo nel Signore? Sicuramente con la forza e la potenza che Lui dona e vuole donare ai papà e ai figli. Sicuramente per l'esempio che lui ci dà. Ho già detto che lui è il papà perfetto. Lui è il papà bellissimo e perfetto. Il resto dei papà sono delle brutte copie. E lo so, mi metto io in mezzo, sono papà, sono la più brutta copia in mezzo qui, sicuramente. Però è così, lui è il papà perfetto e bellissimo e possiamo andare da lui per imparare, per osservare. Papà, quando avete difficoltà con i vostri figli, chiedetevi, Dio che cosa ha fatto con i suoi figli disubbidienti? La Bibbia ne è piena di esempi di questo genere. La scorsa settimana ho sentito una storia che voglio raccontarvi, perché secondo me illumina proprio quello che è l'amore di Dio ed è l'amore di Dio Padre per tutti quanti noi. C'è questa storia di questa signora, di questa signora, ragazza una volta, che ha sofferto tanto, tanto nella vita. Immaginate un po', è rimasta ragazza madre, molto giovane, da subito, appena scoperto della gravidanza, il marito l'ha abbandonata, e non solo, la figlia che poi è nata aveva una forte disabilità mentale, quindi non sarebbe andato oltre lo sviluppo dei 6 anni, quindi ha dovuto crescere questa figlia da sola, abbandonata dalla famiglia, una vita, non ve lo sto a raccontare, però di tante, tante, tante sofferenze e tante difficoltà. Immaginate un po', no? Quello che significa. E poi ha incontrato il Signore, no? E sarebbe bello dire, da lì vissero felici e contenti. Invece non è così. Il Signore molto spesso non ci toglie dalle circostanze che noi abbiamo, ma ci sostiene nelle circostanze. E questo ha fatto per questa nostra sorella. Lei è iniziata ad andare in chiesa e in chiesa ha conosciuto un uomo dopo anni. E quest'uomo si è innamorato di lei, no? Cuoricini agli occhi e tutto. Si è proprio innamorato di questa donna che era, secondo lei, non amabile, no? Ormai era grande. Le rughe della sofferenza solcavano il suo viso, aveva tante macchie, non si sentiva, non si capacitava a dire come fa quest'uomo ad amare me, guarda me. E poi non solo lei si sentiva inamabile e non degna, ma aveva questa figlia, quindi amare lei, magari iniziare una storia, il matrimonio significava non solo amare l'inamabile, ma addossarsi questo fardello di questa figlia che ormai aveva 28 anni, però quindi un corpo da 28, ma era una bimba di 6 anni. Quindi immaginate un po' questo fardello. Però quest'uomo la amava proprio e quindi gli ha chiesto di sposarla. Lei ha detto di sì e quel giorno speciale è arrivato. E quindi si sono sposati, si sono scambiati sì, si sono scambiati gli anelli, le amiche zitelle piangevano a questo punto, no? Come in tutti i matrimoni, no? Qualcuno piangeva. E poi mentre stava andando avanti il pastore per concludere la cerimonia, il papà, il neomarito, piuttosto il neomarito interrompe il pastore e dice al pastore: pastore, ho da dare un altro anello, io ho da dare un altro anello. E si gira alla figlia, alla neofiglia che era in prima fila, la guarda negli occhi e gli dice: figlia, oggi non solo ho la grande gioia e ho preso la grande responsabilità di diventare marito di tua mamma, ma oggi con questo anello io divento anche tuo papà. Io prendo la gioia e la responsabilità di diventare anche tuo papà. Ora immaginate questa ragazza, di sé una bambina di 6 anni, in un corpo da donna, si alza in piedi, corre all'altare, spacca tutto praticamente, abbraccia il nuovo papà e gli dice: grazie, grazie, grazie, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Immaginate un po' questa scena. E quando ho ascoltato questa storia ho detto: sì, è proprio così. È proprio così. Questo è l'amore di Dio per ognuno di noi. La Bibbia dice: quando noi avevamo le nostre rughe, le nostre macchie, quando noi non eravamo desiderabili o amabili, Dio ha dato se stesso per noi e ci ha reso la sua sposa, c'è scritto. E ci ha tolto ogni macchia, ci ha tolto ogni ruga, ci sta lavorando per rendere noi la sua sposa perfetta. Ci ha sposati, ci ha scelti quando non eravamo da scegliere. E la Bibbia non si ferma lì, c'è ancora di più. Usa un'altra immagine, un'altra metafora, che è quella del papà proprio. è proprio quella del papà. In Giovanni c'è scritto che a chiunque crede in lui, lui ha dato il diritto di diventare figli che non erano figli. Ha dato a loro diritto di diventare figli coloro che erano orfani, coloro che erano stati abbandonati, coloro che erano soli, coloro che non meritavano nulla. Lui ha dato il diritto di diventare figli. Questo è il mio papà, questo è il tuo papà. E a lui possiamo andare sempre, fratelli e sorelle, a lui possiamo andare sempre, amici e amiche. Lui è il papà perfetto, lui è il papà pieno di amore, lui è il papà di un amore infinito. Lui sa che cosa significa essere papà. Quindi papà, quando siamo frustrati, quando non ce la facciamo più, quando non riusciamo a gestire la nostra irritabilità e la nostra rabbia, andiamo da lui. Lui sa che cosa significa e lui ha tutte le risorse delle quali noi abbiamo bisogno per essere i papà che lui ci chiama ad essere. E lo stesso vale per i figli. Chi è figlio qui questa sera? Vabbè, è giusto Pino, siamo tutti figli, quindi dovremmo alzare tutti la mano. Anche noi figli possiamo andare al papà per imparare da lui, per imparare l'obbedienza, per imparare l'onore, per imparare di lodare e glorificare la sua santità e la sua bellezza. Lui sa che cosa significa essere papà. Vedete che bello incoraggiamento da questi versetti? Solo dall'aver visto nel Signore. Siete d'accordo con me che adesso inizia a diventare un po' più un incoraggiamento? Però oltre a Dio, ci sono altri che sanno che cosa significa essere papà. I papà in mezzo a noi, giusto? E quindi ho chiesto a qualcuno di noi, a qualcuno dei nostri papà, di condividere con noi che cosa significa essere papà. Quindi l'invito velocemente a salire, così da fargli qualche domanda, da stare insieme. Sì, facciamolo un applauso, perché sono bellissimi. Sono proprio felici e contenti di questo momento. Grazie. Ah, ha cambiato idea, prima non vedeva l'ora, adesso vediamo come va, vediamo, ci divertiamo un po', dai, benissimo, accomodiamoci. Dai, prima di tutto diteci il vostro nome, magari non tutti vi conoscono, la vostra età, è una cosa bella di voi, dai. Sì, mi chiamo Eugenio Vilei, ho 47 anni e sono il papà di Luca. Ed è una cosa bellissima essere il papà di Luca, no? Ci credo. Sono Luca, ho 20 anni e sono il figlio. Sono Davide, ho 28 anni e sono il papà di Mirko. Mirko, te la faccio io una domanda, a me mi rispondi. Ma il tuo papà è bello? Ci voleva provare, poi è stato esitato, vabbè dai, magari fino alla fine ci riusciamo con lui, è bellissimo. Eugenio, inizio da te, posso? Se c'è una cosa che speri tuo figlio impari da te, quale sarebbe? Forse, vabbè, i verbi. Sì, ci sono... Non credo di avere molti pregi, ma credo che un pregio che ho è quello di rispettare tutte le persone, a prescindere, diciamo, non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. E nella società in cui viviamo probabilmente questo può essere un disagio, invece io spero che lui continui a credere nel prossimo e a fidarsi. E poi un'altra cosa importante, in effetti, è lo puoi imparare soltanto se ti fidi di Gesù, perché... Durante la vita probabilmente ti capitano delle cose che non vorresti vivere, però poi quando le rivivi con il senno di poi ti rendi conto che il Signore c'era e ha fatto la cosa giusta comunque. E quindi questo è, fidarsi di Gesù è sicuramente la cosa più importante. Ma comunque non trascurare l'avere fiducia anche negli altri. Bellissimo, è vero. Sì, possiamo fare un applauso. E tu invece, Luca, dici una cosa bella di tuo padre, la cosa che magari ti piace di più di tuo papà, che ti rende fiero di essere suo figlio. Senza imbarazzo, tanto no, siamo fra di noi, sì, cioè, senza pressione, tranquillo. Puoi anche dire una cosa brutta se proprio devi. No. Una cosa che sinceramente amo molto di mio padre e che vorrei portare poi anche nella mia famiglia è l'attenzione che lui ha nei nostri confronti, nei miei confronti, vabbè, in questo momento particolare. Cioè, lui è molto attento alla mia vita, ma non è tanto una apprensione morbosa, è un volermi indirizzare verso qualcosa di migliore o migliorare qualcosa che già va bene, addrizzare qualcosa che già va bene, che va un po' male, no? E questo non lo fa, diciamo, obbligandomi, lo fa vedendo quello che io faccio e poi magari dandomi dei consigli, dandomi un aiuto. Non mi vieta nulla, non mi irrita. Però è vero, cioè, lui fa proprio quello, cioè mi educa, mi dà una disciplina nel Signore, no? E questo è quello che vorrei anche imparare da lui e portarlo poi nella mia famiglia. Bellissimo, sì. Bello. Dai, Davide, ci proviamo. Tranquillo. Mirko. Papà, è bello? No. No, come no? Guarda quanto è bello. Ma c'hai i muscoli, papà? È forte, papà. Ci sta pensando, poi magari ce lo dice dopo. Davide, ti faccio invece questa domanda. Quando ti stavi preparando ad avere Mirko, no? Quindi immagina un po', ti stai preparando ad averlo, quali erano le tue paure? Quali erano le tue paure, le tue ansie più profonde nel prepararti a diventare papà? Credo di la paura poi di non essere mai abbastanza o di non essere bravo come genitore, quello penso che ce l'abbiano tutti e si protrae per tutta la crescita, ma in particolare quella che ho io è di non essere per lui un mezzo per sviluppare al meglio il suo potenziale, quindi di non riuscire ad aiutarlo a sviluppare qualcosa che magari è ancora un germoglio, qualcosa. Lui chiede aiuto a me nella crescita e io non riesco a capirlo. Questo è vero. Vuoi dire qualcosa tu? No. No, neanche per niente. Bellissimo. Eugenio, torno da te. Invece, se c'è una cosa che hai imparato da Dio Padre, che ti ha aiutato nel tuo essere papà, quale sarebbe? Almeno sono due quelle cose che ritengo importantissime. Sicuramente una è il fatto che lui c'è sempre. Questo non solo quando io gli parlo, non solo quando io lo prego, ma anche quando capita che io non lo faccio. In qualche modo lui mi fa sentire che c'è, anche in maniera bizzarra, in maniera, diciamo, ironica, però mi cerca ed è questo che è qualcosa che ti fa sentire amato da Dio e lo riconosci come padre. E questo spero anche che in qualche modo, diciamo, riesco a trasmetterlo a Luca. Questa è sicuramente una cosa importante. E l'altra cosa importante che ritengo sia fondamentale per il rapporto che abbiamo io e il Signore, è che Lui mi incoraggia sempre a fare, e questo è un altro aspetto fondamentale. Se magari nella vita, nel mondo del lavoro, si cercano sempre persone competenti, sempre persone super preparate, in realtà al Signore interessa soltanto che noi ci impegniamo a fare, che abbiamo la volontà a farlo, e lui fa il resto. E quindi questo ritengo che siano due aspetti importanti che posso attingere, diciamo, dall'esperienza di figlio nei confronti di Dio Padre per cercare di essere un buon padre con Luca. Sì, essere sempre presente e incoraggiare a fare. Grazie, bellissimo. Grazie ragazzi, è stato bellissimo riuscire ad osservarli. Ringraziamo ancora una volta. Grazie, è stato bellissimo osservare queste persone. Mirko, volevi dire qualcosa prima di andare? No, continua a non volere. Grazie ragazzi, un altro applauso. Spero che sia stato soprattutto una bellissima immagine di quello che il Signore fa nel nostro mezzo. Nessuno di noi è perfetto, però il Signore si usa di noi per continuare a crescere delle famiglie secondo il suo disegno di amore, ed è bellissimo, grazie di nuovo. Vi passo gli ultimi due incoraggiamenti da questi versetti, dove se il primo era nel Signore, se vogliamo essere dei padri, se vogliamo essere dei figli, secondo quello che è il cuore di Dio, possiamo farlo solo in Lui, solo in chi Lui è, grazie al suo esempio e grazie alla sua potenza. Però poi abbiamo già letto che ci sono cose che sia i padri che i figli devono fare. E qui è la seconda osservazione che farei da questi versetti bellissimi. Se li possiamo rivedere, quella che mi piace chiamare, questa osservazione, il cerchio virtuoso e non quello vizioso. Che cosa significa? Mi spiego. Da questi versi, mentre che li guardate così, emerge questo cerchio, cioè dove un semicerchio è formato da quello che deve fare il papà, e quindi non irritare, istruire e disciplinare. E poi c'è l'altro semicerchio, quello che il figlio è chiamato a fare, cioè a onorare e a obbedire. Se uno di questi due semicerchi viene a mancare, non si crea quello che a me piace chiamare il cerchio virtuoso. E il cerchio virtuoso è quella famiglia, è quella relazione padre-figlio, padre-figli, genitori-figli, dove invece di smontare le cose si costruiscono, invece di scoraggiare si incoraggia, invece di togliere energie si energizza, si dà vita e vita eterna per le persone intorno alla famiglia. Questa è la famiglia dal cerchio virtuoso. E io sono convinto che questi versi il Signore ci incoraggia tutti quanti ad essere questo tipo di famiglia, ad essere una famiglia dal cerchio virtuoso. E la famiglia dal cerchio virtuoso vuole il semicerchio, vuole la fetta, vuole la parte dove il papà fa una cosa. Che cosa non fa il papà? Non irrita. Letteralmente significa non punzecchia i figli fino a quando questi scoppiano, no? E papà, lo sappiamo tutti che cosa significa questo. E non fare quello. E ti ho detto 20.000 volte di non fare quello. Non devi fare quello. Non devi comportarti. Non devi dire quello. Non andare lì. Non fare quello. Oh, papi! Non ce la faccio più. Basta. Lì è un continuo e costante punzecchiare dove esasperiamo così tanto i nostri figli che gli togliamo ogni speranza di obbedienza, gli togliamo ogni speranza di poter onorare quello che gli viene detto. Per questo, genitori, noi siamo chiamati invece, letteralmente c'è scritto, a accudire e nutrire, a curare teneramente con affetto. L'immagine migliore che mi viene qui è sempre quella a me piace il giardinaggio, l'agricoltura. E in questo la metafora, secondo me, calza a pennello. Crescere un figlio è come crescere una piantina. No, la piantina ha bisogno di acqua, ha bisogno di nutrimento, ha bisogno di terra. E a volte, o spesso, quasi tutte le piante hanno bisogno del bastoncino per crescere dritte. La disciplina è sempre quel bastoncino che non è fatto di sfogare le proprie frustrazioni o sfogare la propria rabbia, ma è correggere e dare una direzione al proprio figlio nelle vie del Signore. Questo è quello che i papà sono chiamati a fare. E io sono papà di tre meravigliose creature, che sono meravigliose sempre, quasi sempre, quasi sempre. E lo so che cosa significa essere papà. È che questo semicerchio dell'essere virtuosi non è difficile, a volte sembra impossibile. Per questo, papà, vi chiamo, ci chiamo, andiamo da Dio per le risorse, andiamo da Dio per le forze, andiamo da Dio per distruggere quello che non va in noi, perché molto spesso sapete che cosa emerge in me. Tipo, no, vedete se vi riscontrate in questo, nelle mie insicurezze, no? A A volte io irrito e punzecchio i miei figli perché io sono insicuro, perché mi dico, se non gli dico questo, se non gli dico di non fare quello, se non gli dico di andare in quel posto, se non gli dico, crescerà ad essere un cavernicolo o chissà una poco di buono. È la mia insicurezza che mi spinge a punzecchiare. O a volte invece sono le mie ansie, no? I miei pesi. Viviamo solo io, vero? Giusto? Solo io, no? E poi è così facile, perché magari sai, con il tuo capo al lavoro non puoi, no? Con quella persona non puoi irritarti, non puoi sfogarti, devi fare, no? La persona dritta, diciamo così. E invece con i figli magari poi spesso è la prima cosa che scappa e dice, ti ho detto, vattene, basta! O magari qualcosa in più. Padri, dobbiamo andare dal nostro Dio per cambiare noi stessi, per trasformare noi stessi continuamente al papà perfetto. Impariamo dal papà perfetto per chiudere la nostra metà del cerchio virtuoso. Padri, vi dico una cosa, non è mai tardi per chiedere scusa. Non è mai tardi per chiedere scusa. I nostri figli lo sanno che siamo imperfetti, sorpresa, sorpresa, magari qualcuno dice, no, io mi nascondo, io faccio il duro, e non lo sanno. Lo sanno che siamo imperfetti. Un segno di forza e non di debolezza è chiedere scusa. Vai da tuo figlio, magari stasera perché state insieme, o lo puoi chiamare, guarda, ti puoi nascondere dietro, pure un messaggio, te lo permetto. Chiedigli scusa. Chiedigli scusa, digli non sono stato sempre perfetto, perdono, mi impegnerò a fare di meglio, ad andare dal Dio Padre perfetto per chiudere meglio il mio cerchio. Ti chiedo scusa. Figli? Chi è figlio? E questa è sempre la domanda, trovo che siamo tutti figli. Figli, siate pazienti con i vostri genitori. Non è facile essere papà, non è facile essere mamma. Amen? Siate pazienti con i vostri genitori. È solo quando sono diventato papà che ho smontato alcuni rancori, alcune amarezze che avevo nei confronti del mio. E mi dicevo, sul serio, io ero arrabbiato con mio padre di questo? Ma come ha fatto a sopportarmi tutti questi anni? È un santo, è un supereroe. Figli, siate pazienti, perché un giorno diventerete voi genitori, Dio volendo. E saprete che cosa significa. Quindi per adesso, a fiducia, per me, neanche per i vostri papà, fatelo per me, siate pazienti con loro, d'accordo? Non è mai troppo tardi per chiedere scusa, non è mai troppo tardi per essere pazienti, perché questo, fratelli e sorelle, amici e amiche, chiude il cerchio virtuoso che crea queste famiglie che edificano, che incoraggiano, che portano vita e che fanno la differenza in questo mondo, per potenza di Cristo Gesù. Ma il cerchio non è fatto solo di un semicerchio, giusto? È fatto di due parti, di due semicerchi per chiuderlo. E l'altra parte è quello che devono fare i figli, giusto? E i genitori dicono, quando arriviamo a questa parte? E non arrivi mai a questa parte. Io non vedevo l'ora, le mamme si sfregano le mani, anche papà. Dice, è giusto, dobbiamo arrivare a quella parte che... Figli, obbedite il Signore nel Signore. Obbedite ai vostri genitori nel Signore, obbedite. Lo so che non è facile, ma qui i versi dicono che attraverso questo potete avere una vita felice. Tutto quello che si fa oggi, tutto, la ricerca di un lavoro, la ricerca di una ragazza o un ragazzo, la ricerca di una casa, la ricerca dello sport, un hobby, tutto, la televisione, i film, tutto si fa per la ricerca della felicità quando noi abbiamo la soluzione qui. Figli, volete essere felici? Volete avere una vita abbondante? Quello che sta dicendo letteralmente questo verso, obbedite. Obbedite ai vostri genitori, onorateli, dateli il giusto valore, date il giusto valore ai vostri genitori. Ma dice, Gianlu, ma che pizza, io non ci riesco mai, mio padre, tu sei così, tu hai avuto il papà che è, sapessi il papà che ho io, cioè per te è facile, però sapessi il papà che ho io, è difficilissimo obbedire, a prescindere, obbedisci. Non puoi dirti, no vabbè, ma già lui, io voglio essere libero, voglio fiorire, voglio uscire, voglio fare, voglio diventare qualcuno, voglio fare qualcosa. Secondo me, sapete la metafora che calza a pennello qui? È il pilotare un aereo, no? Se uno dice io voglio volare libero come un uccello, sale nell'aereo, si mette a quota e dice adesso voglio fare quello che voglio e tira la cloche come vuole, inizia a spostare le leve liberamente come gli viene a caso, inizia a spingere i bottoni, sapete cosa succede? La cosa più importante per volare libero come un uccello è ricordarsi e osservare tutti gli insegnamenti e tutti i comandamenti della scuola guida o della scuola piloti. Solo così puoi essere un uccello libero e volare liberamente fra le nuvole. Solo così. Questo è il segreto dell'obbedienza, figli. Volete essere veramente liberi? Volete essere veramente felici? Obbedite ai vostri genitori. Anche qui, da noi stessi è impossibile. È impossibile. Dobbiamo andare al Padre, Dio d'amore. Lui è un Dio perfetto. Lui non solo ci dà l'esempio per eccellenza, ma Lui ci dà la forza, Lui ci promette la potenza dello Spirito per fare quello che noi nella carne, e così lo mette la Bibbia, non riusciremo mai a fare. È per la potenza dello Spirito di Dio che noi possiamo fare queste cose. Quindi vai a Lui, chiedi a Lui forze e Lui ti assisterà, Lui ci assisterà. Figli, anche a voi dico, non è mai tardi per chiedere scusa. Non è mai tardi per chiedere scusa. Se sei un figlio e hai 10, 11, 12 anni, 3, 4, o se sei un figlio che hai 70 anni, non lo so, forse papà, il tuo papà non c'è più, non è mai troppo tardi per chiedere scusa. Anche per noi, figli, è questo che chiude la parte del nostro cerchio, è questo che inizia a far diventare il cerchio uno virtuoso e non vizioso di distruzione. Chiudi la tua parte del tuo cerchio, a prescindere da quello che fa tuo padre, inizia da qualche parte, inizia dal chiedere perdono. E vedrai che il Signore in maniera miracolosa inizierà a chiudere quel cerchio. E la tua famiglia, le vostre famiglie, le nostre famiglie, saranno famiglie che edificano, che portano vita, che portano speranza, che sono gioiose. Chiudi quel cerchio. Genitori, siate pazienti con i vostri figli. Quanto ci è facile cambiare una cosa che non ci piace di noi stessi. Cioè una cosa che a noi non ci piace di noi stessi è difficile, quasi impossibile cambiare. Quindi immaginate un figlio che deve obbedire a una cosa che noi gli stiamo chiedendo di fare, quanto è difficile. Siate pazienti, siamo pazienti con i nostri figli. Chiudiamo questo cerchio attraverso la sua potenza e lui si rivelerà a noi, lui inizierà a guarire. Lo so che forse in mezzo a noi ci sono relazioni distrutte, in particolar modo magari fra padri e figli. Vai a Lui, vai al Papà perfetto, Lui può chiudere di nuovo quel cerchio dove è stato rotto, Lui può guarire, Lui può restaurare, Lui può redimere la tua vita, è la sua promessa e Lui è potente da farlo. Magari ci sono in mezzo a noi persone che non hanno più un papà, forse l'hanno perso, forse non si parlano da una vita. Vai a Dio, Lui è il tuo papà. Lui è il tuo, chiediglielo, papà mi abbracci stasera, quando stai per addormentarti, papà mi abbracci, lui lo fa. Ci alziamo in piedi. Voglio concludere lanciando due inviti. Il primo è alle persone che sono qui questa sera, forse per la prima, forse per la seconda volta, forse per poche volte, e non hanno mai abbracciato Dio come papà, come un papà di amore. Forse l'hai sempre vissuto in maniera religiosa, no? era un uomo nudo appeso a una croce. Forse l'hai sempre vissuto come un'idea distante. Sì, c'è, può, ma a me non mi conosce e non mi calcola. Forse l'hai vissuto come una filosofia, no? Qualcosa che viene insegnato lì fuori, un credo che qualcuno ci crede. Per me forse sei indifferente, neanche contrario. O comunque ti è una cosa distante. Questa sera sono qui per dirti che Dio è vivo ed è un papà di un amore perfetto, e questo amore si estende a te. 2000 anni fa lui ha fatto una cosa incredibile. 2000 anni fa lui ha mandato il suo unigenito figliuolo a morire su una croce per togliere tutte le nostre rughe, tutte le nostre macchie, tutte le nostre imperfezioni, tutti i nostri peccati. Ha mandato suo figlio a morire per te e per me quando noi non eravamo desiderabili o amabili. Questa storia non è una favola. Questa storia non è una storiella che è accaduta tanto, tanto tempo fa. Questa è una storia di amore. È una storia d'amore infinita. È quel papà che dà l'anello. È quel papà che ti dice: io mi prendo l'impegno di diventare tuo papà questa sera. Vuoi diventare mia figlia? Vuoi diventare mio figlio questa sera? Questo grido il Signore sta lanciando a te questa sera. Non sopprimere quella voce che senti dentro, come vabbè sarà la serata bella che sto trascorrendo, o vabbè sì è bello per gli altri ma non per me. No, il Signore sta chiamando te. La parola di Dio dice che il buon pastore chiama e le sue pecore ascoltano la sua voce, lo riconoscono e lo seguono. Segui il papà che ti sta chiamando questa sera, perché ti sta chiamando questa sera. Quindi, chiudendo i nostri occhi, tutti quanti, proprio in segno di volerci concentrare al nostro papà perfetto, ti chiedo: se questa sera sei qui e non hai mai incontrato Dio come tuo papà e vuoi farlo questa sera, perché questa sera è il giorno della tua salvezza, alza la tua mano. Ti chiedo di alzare la tua mano in segno di acconsentire, a dire di sì, io quel papà lo voglio e lo voglio per me. Grazie, vedo delle mani che si alzano, le potete abbassare. Se sei qui questa sera e dici: sì, io voglio che quel papà sia il mio papà, sì, voglio che quella relazione di amore abbia inizio questa sera, che io possa abbracciarlo e sentirlo, alza la tua mano questa sera. Non lo fai tanto per me, quanto lo fai proprio per Dio Padre, che ci sta guardando in questo momento e si sta chiedendo: dove sono i miei figli? Dove sono i miei figli che accettano quell'anello? Grazie, vedo mani che si alzano, grazie, gloria a Dio. Se c'è qualcun altro, alza la tua mano in segno di amore per quel papà. Non è una cosa speciale, non è un gesto magico questo, è solo far sapere a Dio Padre che ci sei e vuoi essere suo questa sera. Grazie, se hai alzato la mano la puoi riabbassare. Amen. Grazie Signore. Grazie Gesù, grazie perché stai chiamando tanti, Signore, grazie. Grazie Signore Gesù. Facciamo questa preghiera insieme. Se stasera hai alzato la mano per la prima volta, o se conosci Dio come tuo papà da sempre, però lo vuoi abbracciare in maniera più profonda e più viva, più tangibile, io lo voglio. Facciamo questa preghiera insieme. Signore Gesù, io ti ringrazio perché il tuo sacrificio sulla croce ha reso possibile il fatto che io potessi essere figlio. Grazie papà, perché mi ami e che mi ami di un amore eterno. Io questa sera ti scelgo come papà, come mio papà, e ti abbraccio. Vieni nella mia vita, trasformala, cambiala, toglia via ogni ruga, ogni macchia, per la tua gloria, Signore Gesù. Amen. C'è festa nei cieli perché ci sono tanti figli in più questa sera nel nostro mezzo. Ringraziamo il Signore. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Voglio anche darvi un'ultima opportunità. Se tuo papà è qui, o meno, se tuo papà è qui, vallo ad abbracciare adesso. Se la tua mamma è qui, vallo ad abbracciare adesso. Se hai da chiedergli scusa, sussurralo nell'orecchio, solo scusa. Non importa per che cosa, a prescindere dovremmo chiedere scusa. No, perché non siamo perfetti. Abbraccialo, magari questo può iniziare il cerchio virtuoso. Forse non lo abbracci da anni tuo papà. Forse sarà una cosa un po' rigida. Ma forse inizierà a rompere quel cerchio. E da vizioso lo renderà virtuoso. Fallo con papà, fallo con mamma. Se tuo papà non è qui, inizialo a fare nel tuo cuore, perdonalo nel tuo cuore in questo momento. E magari a conclusione puoi chiamarlo e dirgli: papà, mamma, vi voglio bene, perdonatemi se non sono stato il figlio o la figlia che dovevo essere. E genitori possiamo fare lo stesso con i figli, se sono qui o non sono qui. Chiudiamo quel cerchio per la sua gloria e affinché lui possa trasformarci.